Di nuovo in diretta dopo la telefonata con Torino, dove appunto ci sono state delle proteste come a Bologna e in altre città d'Italia contro le sentinelle in piedi. Questo gruppo è chiaramente omofobo, dove appunto si nasconde dietro appunto le sentinelle in piedi, i gruppi fascisti che ultracattolici che sostengono appunto di questo tipo di iniziativa pubblica nelle piazze per la libertà di espressione, ma in realtà la loro si legge anche dai comunicati sul loro sito, il loro interesse è quello di protestare appunto contro le leggi, contro l'omofobia. Detto questo, io riprendo quello che diceva appunto Valerio prima, un po' sulla situazione romana. Quello che ho pensato nel momento in cui ho letto delle sentinelle in piedi e guardando anche il loro sito, il fatto che ci sono molte analogie con Milizia Cristi, sul loro sito pure questa cosa è abbastanza evidente. E ovviamente ho pensato anche a quanto hanno fatto bene i compagni qualche mese fa a contrastare un tentativo di contestazione di una discussione appunto al municipio di Cinecittà discorsi contro l'omofobia, proprio appunto per non lasciare lo spazio a questi gruppi anche sotto forma di siti neutri, gruppi Facebook, anche sotto forma appunto con questi escamotage di poter far passare alcuni discorsi su internet, come appunto attraverso queste iniziative come molto appunto simboliche secondo la loro valutazione nelle piazze. E quindi che si moltiplicano quindi le iniziative contro le sentinelle in piedi, dicendo appunto che non c'è niente di libera espressione in queste iniziative, nonostante siano in piedi e leggano dei libri. Comunque quello che ci sta nelle loro teste sono appunto pensieri omofobici. E la cosa che mi fa divertire è che appunto è apparsa questa foto di questo ragazzo che praticamente sta accanto alle sentinelle in piedi, legge un libro come fanno loro, insomma l'imita in qualche modo, ma è vestito da ufficiale nazista ed è una cosa anche abbastanza geniale per comunicare che cosa stanno facendo in realtà queste persone. Sembrano un po' i gesuiti del terzo millennio, nel senso che poi sono gruppi estremamente legati a una concezione totalitaria del papato, si potrebbe dire. In particolare mi riferisco a Milizia Cristi, un movimento politico ultracattolico che chi fa politica a Roma purtroppo conosce, e a questo punto lo abbiamo già detto questa mattina, ma insomma rinnoviamo la solidarietà a Nunzio e a Marco, purtroppo rimasti coinvolti appunto in uno spiacevole episodio proprio contro che riguardava sia le forze dell'ordine sia alcuni militanti di Milizia Cristi. C'è poco da dire, questi stanno veramente fuori. Io non trovo altri atteggiamenti, altre definizioni. Poi tra l'altro non mi stupisce che si leghino a partiti o comunque movimenti di estrema destra quale Forza Nuova, che non è nuovo a questa difesa dell'integrità della famiglia cattolica, a questo integralismo cattolico portato agli estremi, questo rievocare un fascismo, soprattutto da parte di Forza Nuova, ovviamente di Milizia Cristi, un fascismo quello più becero, quello più legato alla religione cattolica, dopo, quindi del dopo 29, del dopo gli accordi tra Mussolini e il Papa, negli accordi del 29, insomma i patti lateranensi, insomma veramente un rievocare un fascismo veramente, veramente becero, veramente da condannare in qualsiasi modo. Quindi ben vengano queste resistenze dei compagni, delle compagne o di cittadini o comunque di associazioni che si oppongono a questi sit-in, a queste, come si possono chiamare, manifestazioni, proteste, non lo so. Bene, a questo punto ci sentiamo un altro brano musicale e poi torniamo sempre in diretta. Rest in peace. Rest in peace. Fresh out the gate again, time to raise the stakes again. Fat my plate again. Y'all cats know we always play to win. GNG to the stars, son. Haters took the shit too far, son. So that's all for you, I'm wiping out your whole team. Ow, splatter your dreams with lyrics to shatter your schemes. The badder you seem, the more lies you tell. The more lies you sound, now by surprise you fell into my death trap, right into my clutches. Stupid, you know the guard must bless every single mic he touches. I've suffered just so I could return harder. Wanna be the shit starter, fuck around, make you a martyr. I'll make you famous, turn around and make you nameless. Cause you never understood how vital to me this rap game is. Save it and hold that, you catch a hot one. Rhymes to chase a fake nigga down soon as I spot one. Clip, do you wanna mess with this? Gangsta, one of the best yet. I'm nice like that. It's all good, in this business of rap. Full clip, do you wanna mess with this? Gangsta, one of the best yet. I'm nice like that. It's all good. Undici e 39 su Radio Onda Rossa. Ricordiamo i nostri contatti: 06 49 17 50 è il nostro telefono, il nostro portale internet www.ondarossa.info per scriverci, ondarossa@ondarossa.info. Ma per chiudere questa finestra su cattolici integralisti che flirtano con il fascismo, il post-fascismo, pagina 21 del Tempo, esce una recensione di un libro, Attivisti, di Antonio Pannullo, edizioni Settimo Sigillo. Poi in realtà in rete si trova anche la casa editrice sotto il nome editrice Europa. Due mattoni per un totale di 700 pagine al modico prezzo di 40 euro, 39 per la precisione. La recensione si intitola Duri e puri, quando la politica era una religione. In libreria Attivisti, opera monumentale di Pannullo sul post-fascismo nella città eterna. Ecco, questa è una rivista, questa scusate, è una recensione che il Tempo mette in coda, diciamo, nelle pagine culturali della testata, per sdoganare un po' quello che è stato il movimento sociale italiano. È sicuramente, io non ho avuto la possibilità di visionarla, ne prendo atto e conoscenza soltanto adesso, però mi sembra un'opera di destra sul neofascismo, in particolare romano. Quindi che riguarda la capitale negli anni immediati, gli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, fino, almeno così si scrive, a quasi i nostri giorni. Attivisti nelle sezioni romane dell'MSI quando uccidere un fascista non era reato, questo è il sottotitolo, abbastanza polemico per quanto mi sembra di capire, un saggio pieno di date, cifre, indirizzi e storie, le storie di quella generazione di giovani che dopo la guerra scelsero l'altra strada, tra virgolette, quella scomoda. A scrivere questa recensione Antonio Angeli, e poi nel secondo volume, una per una, le storie delle varie sedi e sezioni, circa 40, del movimento sociale italiano nella capitale. Pensate, 40 sezioni, luoghi di aggregazione politica, viene scritto, ma soprattutto sociale, di persone che guardavano al partito quasi come ad una religione, frequentavano quelle sedi spesso disagiate non per dare o ottenere incarichi ma solo per sentirsi vivi. E qui si chiude la recensione. Insomma, mi sembra una recensione piuttosto entusiasta verso quello che è stato l'MSI. Noi purtroppo non scordiamo ciò che l'MSI e tutta la galassia dell'estremismo e dell'eversione nera ha rappresentato soprattutto in questa città, ammazzando compagni e comunque ferendo compagni e compagne. E insomma, questo era per dire, in coda, visto che ci siamo occupati di movimenti integralisti cattolici che poi appunto finiscono per essere attigui a partiti come Forza Nuova, che ha un'eredità di estremismo ed eversione nera molto, molto delineata e ben precisa, terza posizione. Quindi ci sentivamo di segnalare questa recensione. A questo punto, in risposta proprio a questi gruppi integralisti, ci andiamo ad ascoltare Le Radici nel Cemento, Siamo Tutti Omosessuali. Perché c'ho da ridì, non vedo che problema c'è, mettiamola così. S'approcio e me, perché non se può fa, non è un problema mio se temi la diversità. Diciamo che a sto mondo ognuno è libero di fare della propria vita tutto quello che gli pare. E se non sei d'accordo, caro mio, sono spiacente, ma non cambia proprio niente. S'approcio e me, perché c'ho da ridì, non vedo che problema c'è, mettiamola così. S'approcio e me, perché sei meglio te, se ne sei tanto convinto almeno spiegami perché. Non rubo, non sporco, non uccido nessuno, non inganno, non molesto, amo con sincerità. Quindi per favore che mi spieghi qualcuno la colpa dove sta. Non è un vizio, non è una vergogna, non è un difetto, non è una malattia, non è un delitto da mettere alla gogna, nessuno sa dire esattamente cosa sia. Secondo me è un istinto del tutto naturale, e infatti lo si osserva anche nel mondo animale. Ma un vile pregiudizio produce una follia chiamata omofobia. Che carecchione, rotto un culo invertito, tutto il repertorio lo conosco a menadito. Tante ne ho sentite già durante la mia vita, compreso frufru, pederaste e sodomita. Mi piace l'odore che hanno i maschi tra le gambe, mi piace tutto quello che hanno dentro le mutande. Mi piacciono le spalle muscolose, i fianchi stretti, le forme spigolose dei maschietti.